America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Incoming White House Communications Director Anthony Scaramucci. First of all, Anthony, congratulations on the new job. Pleasure to be here and thank you for that. Beh, devo dire, non posso lasciarvi per un weekend che a Washington, beh, avendo oltretutto un personaggio come Donald Trump, succede di tutto. Cosa è successo in questi due giorni che non ci siamo sentiti? Beh, abbiamo un nuovo capo delle comunicazioni, il signor Spicer, Sean Spicer, che ha dominato come portavoce della Casa Bianca, se n'è andato, e il signor Anthony Scaramucci ha preso il suo posto. Beh, già il nome, devo dire, è interessante. Scaramucci, tra l'altro, è di origine umbra, un italo-americano cresciuto a Long Island, è un personaggio, un giovane, perché avrà un 45 anni, che si è fatto da solo e è chiamato Mooch. Ed è un giovane molto aggressivo, è un po' come un Trump in giovane. Qual è la storia di Scaramucci? Beh, Scaramucci nasce da una famiglia non agiata in un paesino di Long Island, quindi non vicinissimo a New York, ma riesce a farsi strada, va a Harvard dove ottiene una laurea in legge, quindi molto molto importante. A un certo punto riesce a costituire la sua finanziaria, che fa funds of fund, soprattutto su hedge funds, e la vende appena poco tempo fa, proprio perché voleva dedicarsi di più alla carriera politica, e nel frattempo era riuscito a creare un evento a Las Vegas molto importante, uno dei più importanti eventi mediatici in relazione agli hedge fund. E dunque, quando venerdì pomeriggio Donald Trump ha chiamato nel suo ufficio Spicer, gli ha detto: guarda Sean, io voglio che tu resti con noi, però avremo un nuovo capo delle comunicazioni, sarà Anthony Scaramucci. Beh, Spicer a quel punto ha detto: Mr. President, I disapprove. Disapprovo questa scelta e dunque io rassegno le mie dimissioni. E dunque c'è stata molta agitazione alla Casa Bianca, poi Mooch ha parlato ieri, ha avuto un'intervista con la CNN, che era proprio, attenzione, la CNN, ricordate i tre giornalisti che furono licenziati perché avevano accusato qualcuno vicino a Trump di collusione coi russi e poi invece non era vero e questi tre se ne andarono? Ecco, l'accusato era proprio il signor Scaramucci, il quale con grande galanteria ieri mattina ha scelto come unica network dove ha parlato proprio la CNN. Il momento per la Casa Bianca non è dei migliori, tanto più che il Congresso, pensate, ha approvato proprio nel corso del fine settimana una nuova serie di sanzioni contro la Russia, quindi il tiro contro la Russia è a rialzo, mentre invece Trump cerca di rappacificarsi. A quel punto, questo è stato discusso anche ieri, devo dire, poi Scaramucci ha preso le distanze, ha detto: beh, vedremo, dovremo studiare i file, perché Trump potrebbe porre un veto, ovviamente, ma si tratterebbe di un veto contro una decisione presa dalla stragrande maggioranza del Parlamento, che per una volta si trova unito. Repubblicani e democratici sono insieme ad approvare queste sanzioni contro la Russia. Le ultime notizie che ho avuto sono che molto probabilmente Trump alla fine quando gli arriverà il progetto di legge con le nuove sanzioni lo firmerà senza troppe obiezioni. Ma questa sarà anche la settimana in cui ci saranno le audizioni alla Camera e in Senato di Jared Kushner, il genero e consigliere di Trump e di suo figlio Donald Trump Jr., proprio per la questione dei rapporti con la Russia. E su questo posso anticiparvi che stanno cominciando a emergere alcune storie di cui avevo parlato già qui, un problema di Jared Kushner che aveva dei partner che lo avevano finanziato, poi lui aveva chiesto dei soldi indietro o quantomeno dei favori, un taglio di quelli che erano gli interessi che doveva pagare. Il partner gli aveva detto di no, che loro non potevano perché era un'obbligazione ed era un'obbligazione legata a questo palazzo 666 Fifth Avenue, molto bello ma molto molto caro, e i valori di questo palazzo erano anche caduti. E a quel punto Kushner cercò di usare il suo quotidiano, il suo giornale newyorkese che si chiama The Observer, per attaccare queste persone. Insomma, era una storia un po' strana e a questo punto sta di nuovo prendendo quota. Vedremo se nei prossimi giorni se ne parlerà. Infine, Donald Trump ha provocato su Twitter. Sentiamo. Is it legal for a president to pardon himself? Well, we don't know. No president's ever tried, but he can certainly try. Ecco, beh, insomma, a chiusura di questo lungo weekend, Trump dice di disporre, che lui dispone del potere assoluto per perdonare chiunque possa essere accusato di qualche malefatta all'interno della sua amministrazione, e in qualche modo è come dire che lui sia pronto a perdonare eventuali colpe del suo staff, dei suoi familiari, o addirittura, ha detto, di me stesso in tema di Russia Gate. Insomma, abbiamo davanti a noi una settimana alquanto rovente e potrebbe di nuovo apparire la famosa riforma sanitaria con Trump, che spinge sui senatori perché riescano a trovare un accordo, ma ho paura per lui che questo accordo non si troverà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, abbiamo un clima rovente in questa Casa Bianca, un clima rovente per le strade di New York e dunque da oggi per il resto della settimana vi proporrò una canzone dedicata all'estate, perché qui ci stiamo avvicinando anche alla nostra pausa estiva, al cambiamento di palinsesto. Questa sarà l'ultima settimana di programmazione prima del rientro poi ai primi di settembre. E dunque dei Mango Jerry, un classico, In the Summertime. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.